La rosa purpurea di Franco D'Assisti. E ben ritrovati alla Rosa Purpurea, un saluto da Franco D'Assisti, questo è il nostro settimanale di cinema su Radio 24, come tutti i sabati per tutta l'estate, per raccontarvi tutto il cinema che c'è, anche fra festival, novità estive, qualche film che esce ancora nelle sale, andando verso appunto il momento forse più difficile della stagione per quanto riguarda i film in sala, ma anche con una certa ricchezza di proposte appunto che arrivano soprattutto dal clima festivaliero. È una settimana che porta in sala tre sole novità. Però su ognuna di queste c'è sicuramente qualcosa da dire. Allora noi le vogliamo affrontare, come sempre, con l'ausilio del nostro Boris Sollazzo, che è in collegamento con noi. Ciao Boris. Buon pomeriggio a tutti, ciao Franco. Allora Boris, parliamo appunto di queste novità, di questi nuovi film in sala, partendo da un attore che, diciamo, è diventato un genere, un attore genere potremmo chiamarlo, è Jackie Chan, che ha un po' rivitalizzato, se vogliamo, il film di Kung Fu, per poi farlo diventare commedia conclamata, quasi commedia comica, sicuramente con tanta azione. Arriva nelle sale Skip Trace, Missione Hong Kong, sentiamo la clip. Forse siamo in Mongolia. Chi conosce un bel gioco mongolo per bere? Aia, guarda qui! Sorridi almeno, eh? Sayonara, belli! Andiamo! Sorrido, vedi? Allora Boris, si tratta di, dicevo appunto, di una commedia evidente anche dai toni della clip. Benny Black, appunto Jackie Chan, un detective di Hong Kong che segue da molto tempo un boss piuttosto pericoloso. Un giorno la sua giovane nipote si mette nei guai con niente meno che il sindacato del crimine di questo boss, e Benny Black deve rintracciare l'unico uomo che può aiutarlo, un giocatore d'azzardo americano. Insomma, gli ingredienti non sono nuovi, diciamo, alla commedia di Jackie Chan. I risultati del film quali sono? Un blef, no, scherzi a parte. Volevo giocare sul gioco d'azzardo di Sean William Scott. I risultati non sono molto diversi da quelli che Jackie Chan, piuttosto invecchiato, porta a casa da 10-15 anni. Come dici tu, ha aperto un genere, lo ha sfruttato e spolpato fino all'inverosimile, perché davvero la sua maschera non è mai cambiata, non si è mai neanche scalfita, e questo ha fatto sì che nei film ha dovuto man mano aumentare prima il grado di slapstick, perché ormai non si può nemmeno definire un action il suo, ma veramente slapstick anche nobile, cioè anche vicino a quello che noi potremmo individuare come una versione in arti marziali di Bud Spencer e Terence Hill, in cui lui è più o meno tutti e due, e cerca sempre di più gli assoli, ma dei compagni di squadra, dei compagni di strada, in questo caso, visto che farà un lungo viaggio, che siano insomma amalgamabili con lui. In questo caso devo dire che vale per Sean William Scott, ma vale anche per Johnny Knoxville. La cosa funziona a livello fisico, il punto è che davvero sono film sempre più poveri, sempre meno capaci di costruire neanche quelle coreografie che uno si aspetta da questi film che mettono in campo risse, improbabili scene d'azione, anche momenti demenziali di divertimento. E questa cosa la vedi anche nella scrittura. La scrittura è ancora meno che strumentale, è davvero appoggiata sopra una storia per permettere a Jackie Chan di arrivare a un finale che sia vagamente razionale e logico rispetto alle premesse. Se vi piace Jackie Chan molto, per carità, insomma, è come vedere un social reel, altrimenti come film è davvero poca roba. Tra l'altro un film, Boris, che mi porta anche a una riflessione sul regista Rennie Harlin, perché Rennie Harlin, di origini finlandesi, ma insomma americano a tutto tondo per quanto riguarda il cinema, è un regista di questo genere di film d'azione, che si è cimentato con molti generi dell'azione in passato, che però penso di poter dire tranquillamente da 20 anni non è ai suoi massimi. Io penso che forse Cliffhanger è l'ultimo film che nel suo genere è un po' rimasto nella memoria degli spettatori. No, è davvero la parabola di Lenny Arling è completamente incomprensibile. Lui non ne ha sbagliata una per anni e anni e anni, offrendoci proprio dei cult movie che hanno cambiato il nostro immaginario per quanto riguarda gli action movie, e dimostrando anche una capacità di rendere più moderna la sua estetica e il suo cinema a seconda di come cambiava. Cliffhanger era esattamente quella dimostrazione là, cioè la capacità di portare anche un divo ormai sorpassato sullo stesso piano di genere, ma in una diversa epoca. Poi a un certo punto è come se si fosse spenta la luce, come dici tu, per 20 anni non ne ha più azzeccata una, e qui per chi lo conosce, per i suoi grandi classici, è davvero sorprendente pensare che ci sia lui alla regia, perché ci sono secondo me proprio degli errori anche grammaticali di cinema che uno come lui non dovrebbe mai fare, ma non ha neanche mai fatto, giustamente. Boris, un'ultima così un approfondimento su questo film riguarda proprio Jackie Chan, il suo protagonista, che si è, diciamo così, un po' occidentalizzato. Il primo Jackie Chan sicuramente era l'attore guitto stuntman comico che faceva ridere anche in situazioni un po' più grandi di lui. Forse questo avvicinamento un po' alla popolarità globale lo ha un pochino annacquato. Si è parlato spesso di lui come dell'erede di Bruce Lee, però forse sono due mondi, al di là del livello attoriale, che anche nel caso di Bruce Lee non è che fosse proprio clamoroso, però manca forse di quel mito proprio l'aura della parte mitica, dell'allure del cinema d'Oriente. Beh, il problema è proprio quello, probabilmente non sapremo mai se Bruce Lee avrebbe fatto la stessa parabola di Jackie Chan, io dubito, però sicuramente la morte gli ha impedito di perdere la sua identità come ha fatto Jackie Chan, che è determinante invece in chi fa qualcosa di così circostanziato e così individuabile anche esteticamente, no? Come appartenente a una determinata cultura. La sua forza era essere un elemento diverso all'interno della propria identità, essere un ponte. Nel momento in cui lui quel ponte lo ha passato ed è rimasto solo una maschera al servizio però di film assolutamente occidentali, e che hanno perso qualsiasi tipo di aggancio su quella sponda lì, francamente appunto è diventato questo, una maschera, tra l'altro una maschera sempre più invecchiata, una maschera sempre più improbabile e onestamente secondo me anche più sciatta. Cioè Jackie Chan si impegnava molto di più nei film precedenti, adesso mi sembra che vada avanti col pilota automatico. E allora, questo è il primo titolo di questo fine settimana, di questo ultimo fine settimana di luglio, Skip Trace, Missione Hong Kong con Jackie Chan. Adesso viabilità, fra poco torniamo per parlare di un altro film, sicuramente di un livello più alto in termini cinematografici, che sta di fatto un pochino segnando una piccola saga che è partita alla chetichella, ma sta un pochino contrassegnando il mondo dell'horror contemporaneo. Stiamo parlando della Notte del Giudizio, Electioneer, fra poco. Verona-Torino, trasferta d'affari. Io, un collega e il sistema Digital Radio. Ti va di ascoltare la radio? Certo, ma te la faccio provare in digital. Ne ho sentito parlare. Il suono perfetto che non ti lascia mai nemmeno in autostrada. E in più hai tanti contenuti speciali. Basta un'autoradio digitale. DAB Plus. Chiedila al tuo concessionario. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. La Rosa Purpurea. Seconda parte della Rosa Purpurea, proseguiamo con i film di questa settimana, con il ritorno di un titolo che negli ultimi anni, tra l'altro in Italia uscendo sempre d'estate, ha un po' ridestato l'interesse per un filone dell'horror metropolitano molto molto legato al sociale. Stiamo parlando di Electioneer, il giorno del giudizio, è arrivato al suo terzo capitolo con Election Day. Siamo di nuovo in quel periodo dell'anno, signore e signori, quando la società ci chiede di fare la nostra parte nello sfogo annuale. Per una sola notte ogni crimine sarà legale. Gli aeroporti di tutta America sono stati invasi da orde di viaggiatori internazionali giunti nel paese per partecipare allo sfogo annuale. La massima espressione di libertà. Vengono chiamati turisti dell'omicidio, mentre l'annuale notte di crimine legalizzato assume per la prima volta una dimensione globale. Vogliamo vivere lo sfogo. La purga! Lo sfogo. E allora avete sentito lo sfogo, la purga, The Purge, il titolo originale di questo, di questa saga, Election Year, quello di questo capitolo. Dirige sempre James DeMonaco, Frank Grillo è sempre il protagonista principale. La storia, forse qualcuno di voi la ricorderà, è quella di una società distopica, ma anche contemporanea, nella quale una volta l'anno, negli Stati Uniti, per 12 ore si può fare quel che si vuole, omicidio compreso. È una misura, diciamo così, che è stata ideata da alcuni governanti anni prima per ridurre il crimine durante tutto il resto dell'anno e sfogare tutti gli istinti omicidi dell'umanità nella stessa notte, appunto la notte del giudizio. Le persone possono barricarsi in casa, devono farlo, oppure possono partecipare in mezzo alla strada con tutti i mezzi possibili, con tutte le armi possibili, fino a quando appunto non sarà arrivata l'alba e una sirena ci dirà che il tempo della purga è finito e per un altro anno bisognerà starsene buoni buonini. Nei primi episodi avevamo visto appunto l'intrusione nella casa super blindata, avevamo visto la fuga nella città. Questa volta il tema scelto da James DeMonaco è quello di una, appunto, Election Year ci dice anche un po' qualcosa su una questione politica, perché questa volta al centro c'è una senatrice che sta combattendo contro questa forma che possiamo definire un po' medievale, forse anche, di purga, ma che viene a sua volta messa al centro appunto del meeting del mirino da scatenati che da tutto il mondo stanno convergendo appunto negli Stati Uniti per questa notte. Boris, a me quello che affascina molto di questo film è l'invenzione, no? L'idea, proprio il concetto, che poi è stato sempre realizzato con budget piuttosto limitati, ma con grande efficacia. Come funziona questa volta questo Election Year? Ma forse è meglio che nelle altre volte, vi parla un grande fan della saga. Io trovo che sia uno straordinario esempio di innovazione, di capacità di interpretare il proprio presente e allo stesso tempo di fare ottimo cinema di genere e non solo. In questo caso, tra l'altro, la sfida è davvero complessa e complicata, perché tutto quello che prima era chiuso in un recinto sostanzialmente, cioè si parlava, si faceva una metafora d'America, ma la si faceva all'interno di una città che non sembrava avere grossi rimandi né grossi legami con il resto dello Stato, adesso invece non si finge più che questo sia un'isola infelice, ma si installa all'interno di un sistema che è quello degli Stati Uniti, e addirittura si porta avanti un discorso politico tout court, perché c'è un'elezione, c'è una senatrice che vuole portare avanti un discorso politico, un discorso elettorale, e lo punta sulla cosa più difficile, cioè su quello che nessuno vorrebbe impedire, che questa notte della purga, che questa notte del giudizio possa continuare ad andare avanti. È inevitabile trovare delle similitudini con la realtà. Uno, perché proprio vengono citati i candidati presidenti attuali, e due, perché è chiaramente quella della notte del giudizio e la battaglia che fa la senatrice una metafora, anche sfacciata in alcuni momenti, dei dialoghi della lotta per impedire la diffusione delle armi da fuoco, quindi il famoso secondo emendamento. Allora, tutto questo poteva appesantire la brillante intuizione di The Purge, che era comunque un grande film d'azione, un grande film paranoide, un grande film di invenzione, anche perché spesso l'invenzione delle morti che si davano in questa notte erano anche piuttosto fantasiose, e invece no, sembra dargli un motore in più, perché gli dà una passione, un'evocatività, un'emozione ancora più grande, e hai l'impressione di stare in un progetto più grande, cioè la battaglia non è solo salvarsi da quella notte, ma salvarsi in generale dalla barbarie che sta colpendo gli Stati Uniti. Ecco, se i primi due erano dei film di genere molto molto buoni, qui iniziamo a parlare di cinema con la C maiuscola. Prima era tecnicamente e anche creativamente molto molto interessante, adesso anche a livello di scrittura e di diversi piani di struttura narrativa siamo da un'altra parte. Sta diventando un film d'autore, divertentissimo, da vedere incollati sulla poltrona, ma sta diventando un film d'autore. Ecco Boris, una domanda te la voglio fare su Frank Grillo, che è il protagonista di questa saga sin dal primo capitolo, e che come dire, è uno di quegli attori che sembra vivere esclusivamente in questa saga e magari ancora non è riuscito a trovarsi gli spazi che meriterebbe in altri film. È un po' la la storia di quei giocatori che hanno un giocatore di calcio che hanno la propria primavera solo ed esclusivamente in una città, o quegli allenatori che riescono ad allenare alla grande solo in una città. L'impressione è che Franchillo sarebbe molto difficile da mettere in un altro contesto, ma che qui risulti perfetto. Volendo fare un discorso, insomma una battuta anche esagerata, Franchillo è la notte del giudizio e la notte del giudizio è Franchillo, nel senso sarebbe difficile scinderli, e questo lo è stato fin dall'inizio, probabilmente perché ha quella struttura, quei lineamenti, anche quella recitazione che riesce ad inserirsi in quel fattore di normalità eccezionale. Non mi stupirebbe di vederlo protagonista presto di una grande serie televisiva, perché l'impressione è che sia proprio quella la sua dimensione, più che il grande cinema, una serialità che permetta alla sua faccia di diventare familiare, come è diventata in questo momento, ma allo stesso tempo di essere in qualche modo anche carismatica, in positivo e in negativo. E allora, questo per quanto concerne la notte del giudizio Election Year, a mio modo di vedere, dei tre film nuovi che arrivano in sala, sicuramente il più interessante per quanto concerne appunto la qualità cinematografica e anche il discorso che si porta dietro. Boris, adesso facciamo un salto dalle parti dei Ghostbusters, perché dopo tanti anni tornano le acchiappafantasmi in questa nuova versione nelle sale da questo fine settimana. Sentiamo la clip. Abbiamo dedicato la vita intera a studiare il paranormale e ora ci sono avvistamenti in tutta la città. La gente ha bisogno del nostro aiuto. Holtzman, tu sei un genio dell'ingegneria. Harry, nessuno conosce la fisica quantistica quanto te. Lo faccio ogni volta. Non mi scotta. Conosco New York. Sei dentro. Salve, sono qui per il posto da receptionist. Ciao. Sei assunto? Allora, abbiamo sentito alcune suggestioni sonore di Ghostbuster 3D, il remake paro paro, se vogliamo, di Ghostbuster, ma tutto al femminile. Chiaramente quando si prende in esame un titolo così mitico, così capace di creare suggestione in più di una generazione, è difficile, e con attori che avevano, come dire, quell'allure, insomma, che poi li ha portati a essere quello che sono stati, non è semplice approcciarlo, e devono sicuramente passare tanti anni. In questo caso di anni ne sono passati davvero tanti. Boris, questa versione al femminile suona più come uno sfregio a quella originale, o insomma è una reinterpretazione che ci sta? Non vorrei essere tacciato dall'accusa di sessismo, perché pare che negli Stati Uniti chiunque abbia attaccato Ghostbusters sostanzialmente abbia poi passato le forche caudine dell'accusa di maschilismo. C'entra fino a un certo punto il fatto che siano tutte donne, anche perché poi si era dato, e questa era stata probabilmente una scelta giusta, il progetto a Paul Feig, che è il padre della moderna commedia al femminile, che ha fondato sull'idea di una commedia femminile anche politicamente e fisicamente scorretta la sua cifra stilistica ed estetica. Il problema è che quando tu affronti un mito come Ghostbusters devi porti due domande. Voglio richiamare a me il pubblico del passato, i nostalgici, il vintage, oppure prendere Ghostbusters e accettare la scommessa di renderlo moderno e quindi di consegnarlo alle nuove generazioni? Qui secondo me ci si perde in una via di mezzo che alla fine risulta disastrosa. Si usa il passaggio al côté femminile come approccio alla modernità, e poi però non si ha il coraggio di lasciarsi alle spalle tutto il resto. Lo dimostrano i cameo molto divertenti, di Bill Murray e Dan Aykroyd, e persino di Slimer, però la filologia non è mai rispettata, per dire una cosa assolutamente marginale ma che è importante per tutti coloro che hanno amato i Ghostbusters. Non c'è mai un accenno al fatto che i flussi non si devono incrociare, che era determinante nella cosmogonia di Ghostbusters, tanto che appunto i vecchi amanti del film degli acchiappafantasmi erano abbastanza terrorizzati dal fatto che queste nuove acchiappafantasmi lo facessero. E poi Paul Feig è molto meno cattivo del solito, cioè non riesce a costruire nemmeno questo universo femminile come dovrebbe. Cioè, i Ghostbusters passati erano anche dei nerd, degli emarginati che si prendevano una rivincita sul mondo, avevano una follia e una surrealtà demenziale molto vicina a quella dell'A-Team, per intenderci. Erano degli scappati di casa che si mettevano insieme e diventavano eroi. Sembra esserci solo ed esclusivamente un tentativo del regista di dirci che possono fare la chiappa fantasmi delle donne che non entrano nei canoni estetici hollywoodiani, ma che poi non hanno il coraggio di essere cattive, ciniche, come dovrebbero essere, come vorrebbero essere nella sceneggiatura. E diventano delle macchiette: la McCarthy è una macchietta, la Wig è una macchietta, e così via dicendo. L'unica cosa interessante del film sono gli ultimi 20 minuti, quando si scatena un po' la creatività visiva, soprattutto nella costruzione dei fantasmi e in alcune coreografie dei combattimenti della guerra finale, e soprattutto nel mostro, oserei dire gozzillico, che è una grande idea, devo dire che non vi anticiperò, che però lavora insomma con l'immaginario di Ghostbusters. E ci si chiede: ma perché tutta questa creatività, questo genio li hanno riversati solo negli ultimi 20 minuti, offrendoci poi invece tre quarti di film che sono noiosi, sciatti e purtroppo molto molto piatti? È una domanda a cui io non riesco a rispondere, e forse non bisognava insomma scavare nell'immaginario dei Ghostbusters per fare un film così mediocre. E diciamo che questo tema che tu tratti, Boris, è un tema centrale, cioè il fatto delle attualizzazioni dei film mitici o dei grandi film degli anni 70-80, che si porta dietro molto spesso una banalizzazione, una semplificazione, quasi a dire che bisogna arrivare al pubblico di oggi in maniera un po' all'acqua fresca, e questo chiaramente è un po' penalizzante per questo tipo di lavori. Succede anche con Ghostbusters, purtroppo, ma comunque questa è la terza proposta di questo film settimana in sale, la terza e ultima proposta per quanto riguarda le novità. A questo punto noi salutiamo Boris Sollazzo e diamo appuntamento al prossimo weekend, prossimo sabato, Boris, quando ci sentiremo da Locarno, perché sarà in pieno svolgimento il Festival del Film appunto nella località del Ticino. Sarà un piacere, sempre il mio festival preferito, lo dico senza nessun timore di essere smentito, perché continua ad essere molto moderno nelle sue proposte in Piazza Grande, molto interessante per quanto riguarda il cinema indipendente. Speriamo che Carlo Chatrian continui nell'ottimo lavoro che ha fatto fino adesso. E allora ci sentiamo sabato prossimo, Boris. Alla prossima settimana e buon cinema. Lì nella regia adesso, fra poco torniamo, ci stacchiamo dall'attualità cinematografica, andiamo nella storia del cinema, quella con la S maiuscola, proponendovi la prima parte di un'intervista, di una lunga intervista esclusiva a Dominique Sandà, l'attrice che ha segnato più di una stagione del cinema europeo ed italiano. Oggi parleremo molto molto diffusamente di quello che accadeva sul set di 900 di Bernardo Bertolucci, fra poco qui alla Rosa Purpurea. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora insieme, la Rosa Purpurea prosegue, terza parte del nostro programma. Abbiamo, diciamo così, abbandonato l'attualità cinematografica con i tre film nuovi giunti nelle sale italiane in questo fine settimana. Diamoci un po' di spazio, di aria, di agio per andare a parlare del grande cinema, quello con la C maiuscola, quello che dominava il mondo negli anni 60 e 70. Parliamo del grande cinema italiano, ma lo facciamo con un'attrice francese, perché è stato davvero un privilegio parlare di cinema profonditamente e lungamente con Dominique Sandà. Dominique Sandà, francese, ma come dire, musa di tanti registi italiani, scoperta da Robert Bresson, che la fece esordire come protagonista del suo film Così bella, così dolce nel 69. Negli anni 70 è stata proprio scelta, direi quasi prescelta, dal grande cinema italiano, soprattutto da Bernardo Bertolucci, che la volle con lui per Il conformista nel 70 e poi per 900 nel 76, ma poi anche Vittorio De Sica, che ne fece forse il ruolo più iconico per il nostro cinema, quello de Il giardino dei Finzi Contini di Micol, e quindi ancora Luchino Visconti, un cameo in Gruppo di famiglia in un interno, e per quanto riguarda il lato francese, Agnès Varda e Jacques Demy, che la videro in alcuni film, Mauro Bolognini anche per L'eredità Ferramonti nel 76, che la vide vincere il premio come miglior attrice al Festival di Cannes. Insomma, un'attrice che ha segnato a fuoco fuoco, con la sua bellezza algida, con i suoi ruoli di ribelle, il cinema italiano degli anni 70, il grande cinema italiano degli anni 70. L'abbiamo avvicinata al Queer Festival di Palermo, è stata un'intervista molto molto particolare perché si è svolta di fatto all'interno dell'ufficio del sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, che così molto molto genuinamente ci ha lasciato spazio, ha detto fatela qui l'intervista, io me ne vado, e quindi ci siamo trovati in questo ambiente straordinario a Palazzo delle Aquile con Dominique Sandà a parlare di cinema. Questa intervista aveva bisogno di tempi, di spazi, e allora ho voluto dividerla in due, metà questa settimana, metà la prossima settimana. Da questa settimana, in questa settimana vi faccio ascoltare quello che Dominique Sandà ci ha detto della sua esperienza con Bertolucci, soprattutto sul set di 900, il film che ha disegnato di fatto la storia dell'Italia del Novecento, potremmo definirlo quasi il nostro Heimat in qualche modo. E allora Dominique Sandà in esclusiva alla Rosa Purpurea, il rapporto con Bertolucci e quel che succedeva su quel mitico set di 900. Dominique Sandà parla un italiano perfetto. No, perfetto no, assolutamente. Voglio provare di fare l'intervista in italiano, ma non è perfetto. Allora, cominciamo con l'Italia, allora, cominciamo con i suoi lavori con i grandi maestri. E 900, che ricordi ha di questo lavoro con Bertolucci? Ho particolarmente amato tutta la parte dei contadini nella campagna emiliana, le luci, tutta questa bellezza della campagna che Bernardo ha amato tanto, perché c'aveva un nonno paesano, e questo per lui è stato, lo ha marcato molto, tutta la sua infanzia è andato e si sentiva bene con i contadini, e questo in 1900 racconta un poco l'animo di Bernardo, e mi emoziona molto sempre avvicinarmi di lui attraverso dei suoi film. Più cresco, più mi acerco di alguna maniera, prefiero la distanza per guardare, e perché si percepisce anche di più. Ovviamente, come il personaggio mio nel film, io sono più attratta della poesia di Bernardo che di tutta la politica in genere, no? Però a questo livello sono molto agradezco, come se je remercie, grata a Bernardo per questa profondità della poesia sua, perché lui è nato di un padre poeta e lui è un poeta delle immagini, e no, è i movimenti della macchina da presa sono una cosa tan bella, e sono pinture, pinture e il movimento, e con l'aiuto di tutti i tecnici e particolarmente di Vittorio Storaro, che lui è un genio della luce. E con Bernardo loro due facevano una coppia ideale, e io filmata per loro era un gran dono di questa vita mia, no? Perché ero nei mani dei grandi artisti. Italia per me è stato sempre e sempre nel mio cuore, perché è con me, è un paese che mi ha adottata. Certo. E io avevo bisogno di questo per nascere una seconda volta. E quando sono arrivata qui la prima volta, dopo, quando veniva qui a Italia, sentiva come qualcosa che si apre in me, e mi sentiva meglio, mi sentiva più leggera. C'è nessuno qui? Scusi, non vorrei disturbare. Ottavio non c'è. Tornerò un'altra volta. Ce l'hai una sigaretta? No, io non fumo. Ah, bravo. Bella notizia. Lei chi è? sigaretta. Io sono Alfredo e voglio mio zio. Un sigaro? Mio Salvatore. Per così poco. Quel set di 900 fu un set anche ricco di grandissimi attori. Ci sono scene appunto sue con De Niro, con, ecco, che ricordo ha di questo tipo di scambio? Eravate tutti molto giovani? Sì, incredibile vedere Gérard Depardieu così giovane e anche Bob De Niro. Però era molto bello in quel film, molto bravo e tutti. E bueno, Bernardo, è il talento di Bernardo, no? Come dicevi, è un poeta, però cioè, lui ha la maniera di fare uscire dell'attore lo migliore, e uno lo vuole fare piacere a lui, perché lui è un amore, si dà al suo lavoro e se segui sui attori, li guardi con amore. È molto bello il rapporto di lavoro con lui, e credo che tutti gli attori sentono questo, certo. Non solo gli attori, tutti i tecnici. Grande direttore di attori. Sì, è una persona umana che dà molta tenerezza, che uno lo vuole proteggere, e lui ti protegge come uno scambio fluido. Senta, ma invece fuori dai momenti del film, diciamo, del set, in quella pianura padana, in quelle sere che passavate lei, De Niro, Depardieu, Bertolucci, cosa succedeva? Io quando lavoro e quando non lavoro sono abbastanza, ho bisogno di ritornare in me. Certo. Io faccio yoga de sempre, no? Perché posso dare, però ho bisogno di ritornare alla mia persona profonda, a riconoscere mia alma, mio animo. Certo. E allora non posso permettermi di andare alla notte e fare bevate, mangiate. No, allora facevo sempre, io come attrice avevo capito questo di me, e allora viaggiavo con una valigetta, con una placca elettrica, un fornello e tutto, con il riso integrale, e comprava le verdure e facevo la mia cucina. Io sempre nella pièce dove nell'hotel dove stavo facevo come un piccolo templo, il mio piccolo mondo, per ritornare alla mia sorgente. Questo mi ha portato la possibilità di continuare e di non perdere l'animo, perché io ho avuto sempre paura che mi vanno a rubare il mio animo, perché come ti guardano continuamente tutti. E che è molto difficile di sostenere questo, allora bisogna sempre prendere distacco, distaccarsi. Certo. Quindi niente feste con De Niro e Depardieu? No, però loro sì, come no. E aveva molte donne, moltissime, aveva colla di donne per loro, non aveva bisogno di me. E chi ha più voglia di tornare a casa? Giura! Giura che non diventerai mai un padrone grasso e volgare! Giura! Giura! Lo giuro! Ora giura che mi amerai per sempre e non mi sposerai mai! Giura! Giura! Giuro che ti sposerò per sempre! Ah! E questa era Dominique Sandà alla Rosa Purpura, intervista esclusiva che, come dicevo, proseguirà la prossima settimana con la seconda parte, gli altri registi italiani, Visconti, De Sica, cosa sono stati per lei, quali sono state le sue esperienze. A questo punto noi invece diamo la linea alla viabilità, sentiamo come vanno le cose sulle strade del grande esodo estivo. Torniamo insieme fra poco per parlare anche di femminicidio, un tema che ha impegnato molto in questi giorni Radio 24, a cui la Rosa Purpura assolutamente non si è sottratta, raccontando questo terribile fenomeno, purtroppo in costante crescita, attraverso il cinema. La Rosa Purpura. Ancora insieme alla Rosa Purpurea per andare avanti con il nostro settimanale di cinema. Come abbiamo detto, fra poco vi faremo ascoltare intanto un'altra intervista a una diva. Oggi è la giornata delle dive, abbiamo sentito Dominique Sandà, fra un po' avremo l'intervista con Sandra Milo, che viene fuori in un altro film con un ruolo comico davvero molto molto divertente. Però prima devo dire divertiamoci un po' meno, perché come vi dicevo Radio 24 da tutta la settimana ha abbracciato un viaggio radiofonico nel femminicidio per raccontare le sfaccettature di questo dramma sicuramente italiano, ma purtroppo non solo, che ha avuto dati nel 2015 davvero devastanti e confermati purtroppo dai dati del primo semestre del 2016, uomini che non riescono, come dire, a relazionarsi a un addio o a un problema con una donna se non sopraffacendo, e questo è un tema di drammatica attualità che la nostra radio ha voluto sposare. Noi nel nostro cerchiamo di raccontarlo attraverso il cinema, che è quello che ci riesce meglio, perché il cinema, magari non sapendo neanche che si chiamava femminicidio, questa storia le ha raccontate e continua a raccontarle. Allora noi abbiamo chiesto a una nostra collaboratrice di grande valore e di grande sensibilità come Chiara Pizzimenti di raccontarci appunto il femminicidio attraverso il cinema. Perché io non voglio dimenticare, non la voglio una vita nuova. L'unica cosa che voglio io è tornare con te. Con chi stai adesso? Lo sapevo, dai, fammi scendere. Io ho il diritto di sapere chi si scopa la madre dei miei figli. Ma perché lo vuoi sapere? Ti eccita. Sono io, Emma, mi riconosci? Emma! Emma! È un giorno falsamente perfetto, quello che racconta Ferzan Ospetek partendo dall'omonimo romanzo di Melania Mazzucco. Valerio Mastandrea è un uomo che non si arrende alla separazione dalla moglie e sembra la storia di tanti che non si rassegnano alla fine di un amore e fanno vincere la violenza, fino al femminicidio. Vicende tante volte raccontate dalla cronaca, arrivate anche al cinema. Uno dei casi più famosi è A letto con il nemico, in cui Julia Roberts riusciva a sfuggire a un marito ossessivo e violento. Raccontava di violenza nei confronti di una donna sotto accusa con Jodie Foster, lo faceva il branco di Marco Risi e lo ha fatto anche il vestito da sposa di Fiorella Infascelli con Maya Sansa, violentata da un gruppo di cacciatori. Mamma, mamma, sta passando una macchina, chiamiamo la polizia. Non può più succedere niente, è già successo tutto. Puzzavano come delle belve, mi hanno messo un cappuccio perché aveva un odore nauseante e mi trascinavano. Tema di stretta attualità, presentato anche in documentari e cortometraggi. A uno lavora Lisa Romano, direttrice artistica dell'Ortigia Film Festival. Olga è una donna benestante, laureata, che assolutamente non fa accorgere per anni a nessuno che il marito abusa sia psicologicamente che fisicamente di lei. Ma è anche una donna che ha subito in qualche modo violenza psicologica forte dal padre. Ed è una storia di riscatto perché decide di riscattare tutto questo e di andare a denunciare il marito, ed è proprio la parte che vediamo nel cortometraggio, quando si accorge che il marito tocca la figlia. E capisce di essere vittima di una ciclicità, non vuole assolutamente che la figlia viva la stessa cosa che ha vissuto lei. Gli dice anche: con le nostre famiglie benestanti, i nostri amici borghesi, il modo di vivere eccetera, nessuno mi avrebbe creduto, perché in realtà questa è la cosa fondamentale. Abbiamo un problema legato al machismo in Italia soprattutto, ma anche in altri posti per carità, ma dobbiamo dire la verità, in Italia da un po' di anni si sta, è un fenomeno che si è più sviluppato, più accentuato, parlando di numeri, no? E appunto per questo la violenza nei rapporti uomo-donna non ha classe sociale. Se fai parte di una società più altolocata tendi a nascondere di più, e su questa cosa parlano i numeri, parlano i magistrati, parlano gli eventi. Senti Lisa, come deve affrontare il cinema questo tema? Secondo me il cinema innanzitutto racconta, a volte educa, a volte no, dipende dalle storie, e il modo in cui si deve porre non è assolutamente di genere. Io non credo che il problema di femminicidio sia un problema di genere, non esistono uomini cattivi e donne buone, non è questo, è un problema culturale. Io credo che l'importante sia parlarne il più possibile, e dunque l'arte se ne deve occupare, ma tutta, a 360 gradi. L'arte in qualche modo, e anche il cinema soprattutto, ha sempre educato i popoli, no? Sono le violenze subite dalla sessista società della provincia americana, quelle di North Country, storie di Josie. In Magdalene, invece, di Peter Mullen, vincitore del Leone d'Oro a Venezia nel 2002, si racconta degli abusi e delle violenze psicologiche alle ragazze difficili chiuse nei conventi dell'Irlanda degli anni 60. Miss Violence, arrivato in Laguna oltre 10 anni dopo, parte dal suicidio di una ragazzina di 11 anni per svelare i segreti di un'intera famiglia. Due volte Jennifer Lopez, Border Town, il racconto del dramma al confine americano, le violenze ai danni delle giovani messicane, e Via dall'incubo, in cui è lei a essere in fuga da un compagno che troppo spesso alza le mani. La bestia nel cuore di Cristina Comencini arriva a raccontare la violenza casalinga, che coinvolge anche i figli, con una madre silente che lascia il padre abusare di loro. Tante cose vorrei scriverti, ma una mi preme più di tutte. Ci sono dolori da cui è impossibile guarire. Il nostro è uno di questi. Se lo tiri dritto. Ma questo non ci impedisce di camminare insieme agli altri con le spalle dritte e i piedi fermi a terra. Ora che sei madre, capirai quanto è importante saperlo fare. Una cicatrice è un segno indelebile, non una malattia. La vita, quello che pensavamo ci avessero tolto, possiamo riprendercela. Cominciamo da capo. Anche se per farlo abbiamo dovuto cancellare per sempre il ricordo dei bambini che eravamo. Chiara Pizzimenti con questo racconto del femminicidio al cinema. Adesso, per chiudere la trasmissione, magari anche con un sorriso, cerchiamo di passare ad altro. Vi dicevo appunto di Sandra Milo. Sandra Milo, un'altra diva assoluta per Fellini, per grande parte del cinema italiano, a cavallo fra gli anni 60 e 70, ma soprattutto nei 60, debutta in un ruolo comico. Una diva non ha età, però insomma, diciamo che esperienza Sandra Milo ne ha messa insieme tanta, in un ruolo comico in un nuovo film diretto da Massimo Cappelli, che uscirà appunto il prossimo autunno, al fianco di Vincenzo Salemme, che sarà un po' il mattatore di questo film. Andiamo ad ascoltare quindi l'intervista che ci ha rilasciato durante le giornate del cinema di Riccione, nelle quali sono stati presentati i film di tutta la prossima stagione. Allora, Sandra Milo, intanto un grande piacere incontrarla, e un grande piacere vederla sempre comunque protagonista del nostro cinema. Questa cosa qua è ormai incredibile, perché con un grande entusiasmo lei si butta dentro iniziative come questa, dove c'è anche tutto da inventare, perché oltre a un grande attore come Vincenzo Salemme, però ha anche una banda di giovani, so, reclutati anche un po' fra la gente comune, no? Salemme giovane, assolutamente. Sì, assolutamente. E sì, sì. Come si è trovata in questo cast di un film? Ma io benissimo, guardi, perché purtroppo, o per mia fortuna, non sono consapevole della mia età, degli anni che ho. Cioè, voglio dire, so benissimo di avere 83 anni, di essere una donna vecchia, so benissimo tutto questo, e non mi turba, non mi crea problemi, però appunto non mi faccio problemi, ecco, non ci penso mai, sto bene, ho energia, ho salute, ho voglia di fare, di esserci, voler vivere la vita sempre pienamente, fino all'ultimo, no? Il suo ruolo in questo film ce lo può raccontare in due parole? Sì, certo, il mio ruolo in questo film è una vecchia ragazza di 80 anni che vive a Parigi e si chiama Chanel, e oui, je suis Chanel, je suis française et je me suis fiancée con un garçon, con un ragazzo italiano molto, molto carino, molto charmant. Sì. E lei attraverso internet, no, conosce questo e gli manda le fotografie sue di quando era ragazza e bella. E lui si innamora perdutamente di lei, lei arriva in Italia, però lui quando la vede si trova davanti e casca per terra svenuto. È un ragazzino che non ha neanche 30 anni. E però insomma per una serie di vicende straordinarie che cadono nel film thrill, c'è la mafia cinese, la mafia russa, c'è Salem che è un boss, insomma c'è tutta una storia straordinaria di un uovo misterioso, preziosissimo. E vabbè, quindi si trova coinvolta in questa storia e sempre questo ragazzo che in realtà lui non la vorrebbe mandare a casa, però poi piano a poco si affeziona a lei e alla fine nasce l'amore. Senta, ma invece ci crede all'amore fra un ragazzo di 30 anni e una donna anche di 60, 70 intendo dire? Ma sai, nella vita tutto è possibile, basta crederlo, no? Il segreto è tutto lì. Io ovviamente queste cose non ci penso nemmeno, però il personaggio, lei crede di essere una donna affascinante, dice perché, che cosa c'è di diverso fra me e te, ma come, c'è un sacco d'anni, no? Ecco, per esempio. Ma lei non si rende conto, non è una difficoltà vera quella, e quindi perché no? Però è anche vero che giovani uomini, diciamo non ragazzi, ma giovani uomini cercano in una donna molto più grande di loro anche una sicurezza che forse non c'è più in giro. Sì, anche perché le donne giovani sono molto agguerrite adesso, sono diventate donne aggressive, sì, sono diventate troppo competitive, si sentono non uguali all'uomo ma migliori dell'uomo. L'uomo non è pronto ad accettare tutto questo, capito? C'è qualche milione di anni di storia. Ma certo, e quindi allora magari si rifugia in donne più mature che capiscono tutto questo e lo fanno sentire ancora lui, l'uomo, il dominatore, la forza, capito? Senta signora, quando chiude gli occhi e pensa alla sua carriera, magari le capiterà ogni tanto, anche se lei è sempre in carriera, no? Perché ha fatto un tour teatrale di 2 anni, se non sbaglio, no? Recentemente. Io, l'anno scorso ho fatto 3 commedie in teatro. E non era facile, che una sera una, una sera un'altra. Esatto. Però io mi ricordo tutto benissimo. Ecco, sì. Però le chiedo questo: qual è la prima immagine? Cioè, se lei dovesse in una fotografia, come dire, in un'istantanea, metterci la sua carriera, la notte dell'Oscar di 8:30, il lavoro con Fellini su set, un altro grande regista, cioè, qual è il momento che secondo lei fotografa meglio di tutti la carriera di Sandra Milo? Beh, in realtà io non sono una fanatica, nel senso la mia carriera, la mia professione, sì, mi piace molto, senz'altro. Cioè, se devo mettere un'immagine al culmine, cioè in cima a tutte le altre, è sempre un'immagine d'amore, è la cosa che mi interessa di più, profondamente mi colpisce di più, che stare pronta a fare qualsiasi cosa. E il lavoro sì, ma viene dopo. La ringrazio. Prego. Sandra Milo quindi in Prima di lunedì in un ruolo comico e anche alla Rosa Purpurea per raccontarsi con tutta la sua enorme simpatia. L'avete sicuramente sentito. Allora, siamo giunti alla fine della nostra trasmissione, della nostra puntata. Ci sentiamo sabato prossimo, collegamenti da Locarno, qualcosina che arriva in sala, insomma non manca mai roba importante nel menù della Rosa Purpurea. Io vi saluto, vi do appuntamento appunto alla prossima settimana. Grazie per averci seguito, un saluto da Franco D'Assisti.